Friuli nel mondo. Omaggio a Gorizia, 43esima trasmissione dedicata agli emigrati. Gorizia bisogna guardarla dal San Michele, nelle mattine fredde di prima primavera, quando a tramontana si illuminano rose e le carniche e le giulie incombono festose col grande masso del Canin, che tutto s'accende sopra la piana. Galoppano verso levante, sempre più lontane e serene, fino a sublimarsi nella velata maestà del tricorno. Sotto il fantastico rosario svariano i cobalti delle montagne minori, degli altipiani. Di grado in grado, passando al verde, si scende nella conca e nel suo cuore, raccolta attorno a un colle, scintilla la città. Città evocatrice di epiche memorie, ispiratrice di canti. Le battute iniziali sono di un poeta, Biagio Marin, autore di un bel libro, Gorizia, la città mutilata, alla terza edizione per desiderio del comune. E sue anche le battute seguenti. Gorizia è tutta un verziere. La sua bellezza è nel suo accogliere la terra e lasciarsi sopraffare dal cielo e da quel rapido salire e inazzurrarsi dei suoi monti. Ogni strada porta a un idillio. Gli uomini, chissà come, hanno capito e si sono donati spazio e alberi, fiori e uccelli come se tutti fossero poeti o signori. E per le grandi finestre entrano le stagioni e gli orizzonti. E canti entrano in ogni stagione. Sono le antiche villotte friulane, sono le nuove villotte che quelle continuano con sensibilità moderna. Cecilia Seghizzi, figlia di un maestro, ha ripreso la bacchetta del padre che lungamente amò la sua Gorizia. Compone, istruisce, dirige, si direbbe con la bacchetta stessa lasciatale da lui, sempre all'ombra del gonfalone bianco-azzurro della cara città isontina. Alcune sue musiche. La prima vola nella primavera tra il profumo delle acace e dei ciliegi in fiore. Fiore lo stesso canto di una gente che, pur premuta da un'altra lingua, non abbandonerà mai la lingua armoniosa del Friuli. Ti ascoltavi in lontananze don Gelaghe dal Mulin e che i chianz che tu chiantavis mi portavi in plui vicin. Ascoltavi in lontananze don Gelaghe dal Mulin, laghe dal Mulin, e che i chianz che tu chiantavi mi portavi in plui. E che i chianz che tu chiantavi quest'altra esalta l'estate, nel profumo dei fieni, nella soavità dei tramonti che imporporano le acque dell'Isonzo. Quand che a sere si tornave di stirat sul chiar dal fen, tu biel plang tu mi chantavis, ciolmi me, ciolmi mio ben. Si addice all'estate anche la gerla, parole di Maria Gioitti del Monaco. Ancora profumo di fieni confuso al profumo di resine. Insomma, un eterno idillio nella cornice dei monti. Tutta sola sulla malga. ed è ancora l'amore che ispira la patetica villotta Vorrei tornare a trovarti. Alla fine un richiamo all'autunno. Indora le vigne che si stendono sul collio e che si sperdono verso il mare. Una benedizione del Signore sulla terra fecondata dal lavoro. Parole di un poeta scomparso in questi anni dopo aver offerto alla sua Gorizia una corona di canti. È Giovanni Lorenzoni. Benedetis lis vignis par quel che prometin, par quel che nus dan pesiarare ste gote di vin, sustanzie pai vecchios, pai giovins, murbin. Benedetti i vini su quelle sul blò, par quel che prometti, par quel che nos dà, nos dà un pensionale, ste gote di vin, sustanzie pai vecchios, pai giovins. Thank you. concludiamo con lui. Benedetti i monti, i colli, il piano di Santa Gorizia, alla quale Friuli nel mondo dona questo omaggio spirituale. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo. Omaggio a Gorizia, 43esima trasmissione dedicata agli emigrati. Testo di Chino Ermacora. Musiche di Antonio Vivaldi e di Cecilia Seghizzi. Ha partecipato alla trasmissione il coro di Villa Vicentina, diretto da Secondo Del Bianco. Solista Renzo Del Bianco.